24 mattino. Sono le 8:17 minuti, eccoci nuovamente in diretta 24 mattino con l'economia. Soldi e dintorni. Eccoci con Deborah Rosciani. Che ci fai qui, Deborah? Guarda, c'è il Giro d'Italia dalle tue parti. È vero, se lo stanno godendo i miei genitori. No, io sono qua stamattina per denunciare a tutti finalmente che il nostro siparietto del mattino è in realtà uno spot occulto per quale tu prendi un sacco di soldi, quelle 200.000 lire al giorno. No, questa cosa di Mike Buongiorno, pace all'anima sua, poveretto, sì. E di Loretta Goggi è stata oggi veramente scrive il divertente. Giornale, sì, infatti. Sì. Vabbè. Allora, noi invece parliamo di un tema molto più serio. Si parla moltissimo in questi giorni su tutti i giornali, ne parliamo anche noi ampiamente in radio, se ne parla in tutta la televisione, di spesa pubblica, di austerità, di rigore dei conti degli stati, della nostra manovra da 28 miliardi. Oggi è il tema questo proprio su tutti i quotidiani. Si parla di lotta all'evasione fiscale, del nuovo redditometro, di lotta ai falsi invalidi, si parla anche di possibilità di posticipare l'età della pensione e quindi di ennesimo riordino del sistema previdenziale. Tutti temi delicatissimi a cui oggi non ne aggiungiamo uno, perché c'è un provvedimento che è in via di definizione in Parlamento e al quale, per quanto può essere modesto il nostro contributo, sentiamo di dare un appoggio. Parliamo di una misura che vorrebbe prevedere l'anticipo dell'età della pensione per una particolare categoria di lavoratori, ovvero per i parenti di persone disabili che quindi si occupano della loro assistenza. È un tema molto importante. Oggi naturalmente queste persone hanno già delle possibilità che la normativa appunto dà loro di prendersi dei congedi per assistere queste persone, ma la cosa potrebbe strutturarsi in maniera definitiva e molto più importante. Allora, questa mattina intanto cerchiamo di destare un po' di attenzione nelle famiglie interessate su questo argomento, qualora fosse sfuggito il dibattito su questa possibilità appunto che potrebbe arrivare presto. E allora abbiamo chiamato una persona che ne sa qualcosa di più, Damiano Bettoni, direttore generale del patronato delle ACLI, che saluto e ringrazio per essere Soldi e dintorni questa mattina. Dottor Bettoni, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. Allora, dicevamo, è una misura attesa da tantissime famiglie, poi faremo anche qualche numero, che peraltro in questi anni hanno dato grande battaglia con raccolte di firme, anche forum su internet. Questa normativa, visto al momento, mi sembra il sì alla Camera due giorni fa, adesso attende la lettura al Senato, no? Esattamente, è stata approvata dalla Commissione Lavoro della Camera e è una legge, una proposta di legge bipartisan, perché ha messo insieme, ha unificato una serie di proposte di legge e adesso andrà al Senato. Allora, un'operazione che costerebbe circa 3 miliardi il costo per il prepensionamento di queste persone, una misura che dovrebbe essere finanziata dall'aumento dell'accisa sugli alcolici. Poi a noi le modalità con cui viene finanziata interessano poco, l'importante è che si possa partire. Peraltro mi sembra, dottor Bettoni, che dovrebbe essere al momento comunque una misura sperimentale per un triennio. Esatto, è per un triennio, sperimentalmente dal 2010, 2011 e 2012, e la copertura avviene, che è una copertura importante, anche con l'aumento della contribuzione dei lavoratori speciali, lavoratori autonomi nelle liste speciali, sostanzialmente le collaborazioni a progetto, ma che hanno già una contribuzione, per cui sono o pensionati o hanno un altro lavoro, per cui sostanzialmente questa norma, che io ritengo particolarmente importante, viene finanziata dai lavoratori attivi, e questo a me pare insomma, importante, anche un segnale di solidarietà da parte dell'1% della contribuzione di chi ha comunque già una copertura previdenziale. Infatti. Allora, ci può spiegare esattamente chi potrà chiedere il prepensionamento? Perché di prepensionamento si parla, quindi di andare in pensione prima, proprio perché si ha nel proprio nucleo, nel proprio ambito familiare, una persona in difficoltà affetta da gravi handicap fisici o mentali e di conseguenza che necessita della totale assistenza. Molto spesso le strutture ci sono per assistere queste persone, ma non sono, non dico adeguate, in ogni caso la famiglia deve fare molto e non sempre è detto che la famiglia voglia per forza usufruire di strutture, appunto, e quindi ci si vuole prendere cura anche di queste persone, è necessario farlo. E quindi chi potrà chiedere il prepensionamento, Bettoni, secondo quanto stabilisce almeno fino a questa formulazione la normativa? Bene, prima di tutto è utile ricordare che da una recentissima pubblicazione dell'Istat il 93% dei disabili vivono in famiglia, per cui questa è una norma che riguarda le famiglie soprattutto che assistono i disabili. E la legge prevede che i soggetti che possono richiedere il prepensionamento possano essere o genitori o fratelli a determinate condizioni o figli di persone con disabilità. E qui c'è il primo concetto da dire, nel senso che queste persone devono essere invalide totali al 100%, non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e essere contestualmente in una situazione di handicap in stato di gravità. Per cui se il disabile ha questi tra virgolette tre requisiti, il parente, che è o il genitore o il fratello o sorella o il figlio, se convivente, può accedere alla pensione di vecchiaia anticipata, per cui passa da 65 a 60 se uomo e da 60 a 55 se donna, purché abbia assistito per 18 anni la persona disabile, per cui poi deve dimostrare di aver assistito per 18 anni la persona disabile e avere nella vita contributiva, avere una vita contributiva di almeno 20 anni. In questo caso potrà richiedere la pensione anticipata, per cui se uomo da 65 a 60 anni, se donna invece che a 60 anni a 55 anni. No, peraltro è molto interessante anche il punto del dover dimostrare di aver assistito per un tot di anni queste persone disabili nell'ambito della propria famiglia. Speriamo che poi lì il meccanismo, diciamo, di conferimento e di riconoscimento di questa pensione non si ceppi proprio nelle modalità di riconoscimento, perché mi sembrerebbe anche assurdo. Poi magari ci ritorniamo. In ogni caso, dottor Bettoni, questa sarebbe una rivoluzione importante per il nostro paese, ma non è che in attesa di questa normativa adesso non si potesse avere niente, perché la legge offriva delle opportunità a chi già vive queste situazioni molto spesso drammatiche in molte famiglie, e ci sono delle opzioni di congedo dal lavoro anche se non erano definitive, come per esempio appunto un prepensionamento. Esattamente, nel senso che i permessi sono nati, i famosi tre giorni permessi che penso ormai tutti i cittadini italiani conoscono, durante il mese per assistere il familiare in stato di handicap di gravità. Con la riforma dei congedi parentali nel 2000 si poteva prendere un periodo di aspettativa di 2 anni, chiaramente occorreva essere lavoratori dipendenti, si poteva prendere un periodo di aspettativa di 2 anni pagato sostanzialmente dall'INPS o nel caso dei dipendenti pubblici dal quindi con una remunerazione totale rispetto allo stipendio che si doveva sospendere? Sì, con remunerazione totale, con dei problemi per i dipendenti pubblici per quanto riguarda gli assegni accessori e anche per i dipendenti privati, e con un limite che comunque era un limite ampio di circa 36 mila euro, per cui oltre quella cifra non si poteva prendere. E questa norma del 2000 via via ha avuto delle successive agevolazioni, nel senso che con una recentissima sentenza della Corte Costituzionale, recentissima dello scorso anno, è stato previsto che prima era nata per i genitori assistere i figli, poi è stata allargata per il coniuge, per assistere il coniuge in stato di disabilità, e con la recente sentenza della Corte Costituzionale è stato possibile che anche i figli possano prendere il congedo fino a 2 anni di aspettativa per assistere il padre o la madre, genitore, chiaramente a determinate condizioni, certo. Non ci deve essere il coniuge non deve essere in grado di assistere insomma il proprio marito o moglie, e che si sia conviventi con il genitore disabile. Ecco, però sostanzialmente c'è anche questa importante modello di assistenza. Aspettiamo allora adesso che invece passi questa seconda normativa, che è ben più importante, e avete sentito quante famiglie potrebbe interessare. C'è un'indagine che è stata pubblicata dall'Istat qualche anno fa e che indicava che le persone con disabilità non anziane al di sotto dei 65 anni attualmente residenti in Italia sono oltre 1,5 milioni, e di queste ben il 41% raggiunge il livello massimo di disabilità, e come diceva appunto il dottor Bettoni, il 91,5% di queste persone con disabilità vive in famiglia, quindi immaginate quale grado di assistenza ci sia bisogno di assicurare loro. Seguiremo l'evoluzione di questa norma, speriamo che passi al Senato, dottor Bettoni, e magari ci ritorneremo anche più avanti. Intanto grazie, buona giornata. Grazie a voi e buona giornata. Alessandro, alle 12. Salva Danaio. Mercati, euro debole, in borsa. C'è qualche società che potrebbe addirittura beneficiare di questa situazione un po' tormentata sui mercati di questi giorni? Oggi indaghiamo su questo. Lo scopriremo alle 12. Noi ci ritroviamo lunedì, noi parliamo nel nostro sondaggio di rapporto padri-figli, di rapporto meglio genitori-figli, padre-madre e figli. Perché la storia è quella di un ragazzo di 13 anni californiano che si trova in questo momento a 7500 metri, vuole arrivare alla cima dell'Everest, perché voglio essere il più giovane al mondo a farlo. E ci sono anche le polemiche in America a dire: ma è davvero il caso? Noi vi chiediamo, se fosse vostro figlio, voi glielo permettereste? Radio24.it per votare, bianco o nero, oppure se volete intervenire 800 24 0024. 24 mattino. Sono le 8:34 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. E allora, nel nostro sondaggio di oggi parliamo di rapporti tra genitori e figli. Io soy o blanco o negro, gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? Ma sì, il rapporto tra genitori e figli. 800 24 0024 per intervenire in diretta, oppure 349 238 6666 per i vostri messaggi. La storia che mi ha incuriosito è quella di questo tredicenne, Jordan Romero, americano, californiano. Si trova in questo momento a 7500 metri, quasi sulla cima dell'Everest, 8850 metri. Vuole arrivare lì perché dice: voglio essere il più giovane al mondo a farlo, a 13 anni. È lì col papà, tra l'altro. E scrive nel suo blog: ogni passo che faccio è verso il più grande obiettivo della mia vita, stare in cima al mondo. Ci sono però anche le polemiche. Ma è davvero il caso? Ma che senso ha? I genitori perché permettono una cosa del genere a 13 anni? Qualche giorno fa Jessica Watson, 16 anni, velista australiana, ha fatto il giro del mondo in barca a vela da sola. È arrivata, c'era il premier australiano, l'ha accolta trionfalmente, ma anche le polemiche a dire: ma i genitori, ma come hanno potuto permettere una cosa del genere per una ragazza di 16 anni da sola in giro per il mondo? È giusto o sbagliato? Voi lo permettereste? Questo vi chiediamo a Jordan Romero, di andare a 13 anni in cima all'Everest. Radio24.it per votare. Allora ne discutiamo intanto con Alessandro Meluzzi, psichiatra. Buongiorno, professor Meluzzi. Buongiorno a tutti voi. Scrive anche spesso sul giornale, ma insomma lo conosciamo. Voglio salutare intanto anche due, se posso dire, protagonisti, insomma, di vicende simili. Adesso vi spieghiamo perché. Alex Bellini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Alex buongiorno. Bellini nel 2005 ha fatto la primo uomo a traversare in solitaria a remi il Mediterraneo, l'Oceano Atlantico, 226 giorni, 6.000 miglia da Genova al Brasile. E poi voglio salutare la signora Stefania Cagno. Buongiorno signora Cagno. Buongiorno. È la madre di Rosolino, forse lo ricordate, l'anno scorso, 8 anni, è entrato nel Guinness dei primati perché ha attraversato a nuoto lo stretto di Messina. Allora, signora Stefania, come ha potuto permettere una cosa del genere? Lo so, è un po' difficile pensare che una mamma possa permettere al proprio figlio di fare quasi 3 chilometri a nuoto. Allora, un po' all'inizio non volevamo assolutamente, però è nato tutto per gioco. Mi è stata fatta questa proposta. In base all'allenamento del bambino e quanti chilometri fa 3 volte a settimana andando avanti e indietro nella piscina, e poi ci hanno assicurato che non c'era nessun problema perché il bambino è stato vicino al bambino, c'era una barchetta con il medico, con il papà, lui non era solo in mare. No, no, questo sì, è stato seguito da una barca, insomma. Sì, certo, ma altrimenti non lo mandavamo assolutamente. Però le chiedo, ma che lei si è chiesta anche che senso ha? Cioè, è giusto che il mio bambino a 8 anni entri nel Guinness dei primati e quindi abbia anche un momento magari di notorietà? Oppure no, magari è giusto, è meglio di no, insomma, è meglio preservarlo, è meglio, no? Troppa notorietà. No, ma io non ho visto... Cioè, preservarlo sì, non è che è stato proprio questa cosa di notorietà, lui è stato felicissimo, non ha capito quello che ha fatto, non l'ha capito assolutamente, anche perché è piccolino. Però, essendo che era seguito, non c'era pericolo, assolutamente pericolo, e allora gliel'abbiamo permesso, anche perché lui lo voleva fare e ha insistito molto per farlo. L'ha fatto. Tra l'altro adesso pare che voglia fare anche lo stretto di Gibilterra a nuoto. No, vabbè, è stata solo una battuta, ma assolutamente. Ah, quello non glielo fa fare, no? Ma assolutamente. Assolutamente no. Immagino, professor Meluzzi, senta anche la storia di Alex Bellini. Bellini, io vorrei innanzitutto partire, so che lei ha una figlia molto piccola, di 5 mesi, intanto auguri ovviamente. Sì, esatto. Tra l'altro lei è valtellinese, quindi col mare ci azzecca poco, ma questo ne ha scritto anche un libro, Mi chiamavano Montanaro. Lei a sua figlia permetterebbe a 16 anni o qualcuno dice a 14 fare il giro in mondo in barca a vela? In Olanda hanno provato con una ragazzina di 13 anni, hanno tolto la patria potestà ai genitori il tribunale. Lei sì, che ne in pensa? Realtà vorrei fare una piccola premessa iniziale, ossia ognuno è libero di fare quello che vuole, il mondo è talmente vasto e le aree da esplorare sono talmente vaste che accolgono anche persone di questa età. Detto questo però non credo, non sono favorevole a questo proprio buttare nell'arena questi piccoli bambini, queste giovani vite, per due ragioni in particolare. Una, perché spesso per attività di questo genere non solo provano il fisico, l'uomo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista mentale. Bisogna avere una grande maturità, una grande consapevolezza di sé, dei propri limiti, delle proprie potenzialità. E secondariamente, nel caso sfortunato in cui un bambino, ma neanche se nel caso di successo che insuccesso, viene sottoposto il bambino a una pressione mediatica talmente forte che io, che ho 32 anni, spesso non ho ancora i mezzi per sostenere questa pressione, quindi non credo che un bambino di 12 anni possa fare meglio di me. Però se sua figlia le dicesse, che ne so, a 15 anni, a un'età che lei può dire voglio fare il giro del mondo in barca a vela da sola, si porrà il problema, insomma, farlo, concederlo, oppure che senso ha? Allora, sicuramente è qualcosa che mi tocca molto da vicino, perché è la mia vita, insomma, è la mia passione, faccio questo perché è la mia attività, quindi mi sono spesso domandato assieme a mia moglie come potremmo reagire. Certo, bisogna trovarci sì in quella situazione, però io credo che a 12 anni un bambino debba considerare l'attività sportiva come come un divertimento, una maniera per stare assieme ad altri amici, socializzare, sì, crearsi proprio le basi del proprio carattere. Quindi più che essere certo buttato, più che essere, mi è piaciuta l'idea buttare queste giovani vite nell'arena, non so se da questo voglio partire, professor Meluzzi. Ha sentito però anche la signora Stefania dire è stato un gioco, lui non si è reso conto, non è che l'abbiamo esposto a chissà cosa. Allora, sdrammatizziamo, fa bene la signora sdrammatizzare, ma direi che tutte le cose, oltre a, diciamo così, a una loro fenomenologia visibile, hanno un loro senso. Allora, il primo senso è un senso che riguarda il valore che noi attribuiamo alle cose nel nostro mondo e nella nostra società. La nostra è una società performante, in cui ognuno vale nella misura in cui riesce a fare tante cose, molte cose, bene, a esprimere molta performance in generale. La Vienna di Freud era la società della repressione, infatti la nevrosi era frutto della repressione del desiderio e la terapia era la liberazione. La nostra società è la società della performance, la sua malattia è la depressione, cioè la sensazione di non aver fatto abbastanza, di non aver avuto abbastanza, di non aver goduto abbastanza, e quindi la nostra terapia deve essere la saggezza. Cosa ci dice la saggezza? Ci dice che evidentemente su questi bambini vengono proiettate non soltanto le aspettative dei genitori, che è ovvio, e questo a volte è più salutare, a volte meno, ma spesso è anche fonte di distorsioni. Quando noi pensiamo che i nostri figli debbano realizzare quello che noi non abbiamo realizzato, possano fare quello che noi non abbiamo fatto, ma qualche volta arrivano anche le aspettative della società nel suo insieme, quindi il successo, la vittoria, essere primi, l'agonismo, gareggiare. Quindi quello che mi scandalizza, vede, non è tanto il fatto che oggi i bambini, che sono delle spugne, recepiscano questa nostra nevrosi diffusa della performance, che come dicevo è di tutto ed è di tutti, ma il fatto che tutto questo si applichi esclusivamente a delle questioni totalmente solipsistiche, solitarie, isolate, egotiche, come la performance sportiva, come essere il primo, come essere il più giovane, cioè la nostra unica Bibbia è diventato il Guinness dei primati. Sì, oddio, io Meluzzi, prima, più che, io non lo manderei mio figlio, meglio direi no, sull'Everest non vai a 13 anni, però forse non lo manderei di più in TV, in questi programmi dove è un po', quello sì, è un po' un circo mediatico, no? Dove vengono esibiti. Le due cose tra di loro si assomigliano più di quanto non si creda. Sì. Si assomigliano in questo senso, che vede, quello che mi scandalizza non è il fatto che si voglia essere primi nella primi nel piccolo festival di bambini, o primi sull'Everest, primi nella traversata dello Stretto di Sicilia, o primi anche nella gara di ciclismo, non dobbiamo dimenticare che ci sono bambini dopati come no, come no, è vero. Per essere piccoli campioni non solo nel ciclismo purtroppo, ma c'è il doping a 12 anni, a 13 anni, certo. E lì con la complicità dei genitori, evidentemente. Beh, probabilmente dopati anch'essi nei loro passati sportivi. Allora, il problema non è questo, che si vogliano fare cose eccezionali nella vita, che tutto sommato è inscritto nella profondità graziosa e aggraziata del cuore e dell'anima degli uomini, ma il fatto che queste cose siano cose solipsistiche. Allora io voglio finire di scandalizzarvi dicendo un piccolo ricordo. Il piccolo, quello che sarebbe diventato San Giuseppe Cottolengo, quando era bambino, lasciava scandalizzata sua madre nella piccola città di Bra, prendendo continuamente le misure delle camere della loro casa di medie dimensioni, perché non erano proprio poveri, e diceva: sai mamma, io sono triste perché la nostra casa è troppo piccola, come farò a farci stare qui dentro tutti i malati che voglio farci stare? Capito? Anche lui era matto, chiaramente, come il bambino che vuole attraversare lo Stato di Gibilterra. Anche lui voleva fare qualcosa di eccezionale, come tutti vogliamo fare qualcosa di eccezionale. No, ma comunque non è matto. Tra l'altro io devo liberare la signora Stefania, che deve accompagnare la più piccolina all'asilo, che quindi è cose più importanti. La piccolina ha già manifestato desideri di fare qualcosa? No. No, no, no, no, lei fa solo nuoto e basta. Ah, beh, il nuoto, vabbè, giustamente, insomma, da quelle parti il nuoto viene anche come attività molto naturale. Signora Stefania, io la devo salutare, la ringrazio. Rimangono con noi Alex Bellini, Alessandro Meluzzi. C'è il traffico, poi sono come solito quando si parla, rapporti, genitori, figli, tanti gli ascoltatori. Voglio andare da Francesca, Paolo, Massimo, da voi sono tra un attimo. Io sono o blanco o nero, gris, no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, tra l'altro, la maggior parte, il 75% di chi sta votando su Radio 24 dice: no, non manderei mio figlio, non permetterei mio figlio a 13 anni di scalare l'Everest. Questo è il tema di cui stiamo discutendo, perché, come detto, Jessica Watson in Australia ha fatto il giro del mondo in solitaria, in barca a vela, è stata accolta da onori, trionfante il premier australiano, ma anche qualche polemica. In Olanda, l'anno scorso, una olandese, una ragazzina di credo 14 o 15 anni, voleva fare il giro del mondo, è intervenuto il tribunale, ha tolto la patria potestà ai genitori, a dire: genitori, ma cosa state facendo? Mettete una ragazzina di 14 anni, permettete questa cosa? Allora, Francesca da Roma, buongiorno. Buongiorno, ecco, io dissento con il professore, se mi permette, perché non riesco a capire come si può richiedere di non mandare dei ragazzi che sono sportivi, sono allenati, non è che si inventano o decidono invece di andare in discoteca, andare sull'Everest, sono persone che vogliono competere con loro stessi anche per trovare i loro limiti, per riuscire a capire, non sono persone abbandonate. Ma questo sì, non abbandonate, però il professore dice: è una società performante, spesso magari si vuole trasmettere e mettere nei figli tutte le soddisfazioni che magari il genitore non ha ottenuto, e quindi no, vede nel figlio la realizzazione di un qualcosa che il genitore non ha ottenuto, e quindi magari lo fa anche con una certa, trasmette questo con una certa ansia. Lei invece dice di no, Francesca, bisogna lasciarli liberi di esprimere le loro potenzialità. Forse è più pericolosa la discoteca a dei 12 anni con quel che comporta, piuttosto che un'attività sportiva che fa capire i propri limiti. Sì, l'attività sportiva sì, però andare sull'Everest non è un'attività sportiva, capisce che è un qualcosa di più, è un'attività sportiva estrema, se vuole, no? Ci vogliono preparazioni, magari sull'Everest no, ma fare il giro del mondo in barca a vela non è una cosa, non è fare andare in piscina a una lezione di nuoto, ecco, questo voglio dire. Le lezioni di nuoto sono abbastanza noiose se non sono finalizzate. Fare 3 chilometri per attraversare un golfo con la barca vicino, non mi dica che se non è pompato dal punto di vista del mediatico sia pericoloso per un bambino, perché un bambino che normalmente si allena fa quelle percorrenze, c'è un medico sportivo che valuta se la persona è idonea. Dal punto di vista fisico sì, qui si parla insomma che senso ha, voglio dire, a 8 anni dire che Rosolino Cagno ha attraversato lo stretto. Però mi piace il suo punto di vista, grazie Francesca. Voglio andare a Treviso da Paolo. Sì, buongiorno. Io la penso come i giudici olandesi. Io revocherei la patria potestà. Tra l'altro io frequento la montagna abbastanza spesso. Detto che Paolo, il ragazzo di 13 anni è col padre, quindi voglio dire, in questo caso vuole, però vede, l'embolia polmonare, l'edema, se ne frega se il bambino è col padre oppure no. Se deve colpirlo, lo colpisce lo stesso e lo fa morire. E quindi quel padre là, mi dispiace, ma dal mio punto di vista è un disgraziato. Arrivando al discorso generale, io, il professor Meluzzi, non posso che sottoscrivere quello che ha detto. Sono padre di 2 figli, mi piace lo sport, però so appunto che le mie posizioni non devono influire sulle scelte dei miei figli. Io devo capire quali sono le loro inclinazioni, se è il caso coltivarle, ma sapere che hanno un'età, hanno uno sviluppo e deve essere rispettato. Grazie, sentiamo Massimo da Pavia, buongiorno. Sì, buongiorno. Ma io non ho nessun tipo di problema particolare, se il bambino è allenato e voglio dire è col padre ed è seguito, non vedo perché non debba fare una cosa che gli fa piacere. L'importante, secondo me, è che il bambino segua le sue inclinazioni, quindi faccia quello che gli fa piacere fare e non lo faccia perché deve far piacere al padre. No, questo no, certo, che non, dire, che non sia obbligato. Secondo me ci sono stati ci sono dei campioni, campionesse in miniatura di ginnastica che a 14-15 anni vanno a fare i campionati del mondo di ginnastica artistica. Si allenano logicamente due volte al giorno per 7 giorni a settimana, sì. No, è uno sforzo grandioso anche quello. Sì, però qui insomma siamo su piani un po' diversi. Forse Alex Bellini ci può aiutare a capire cosa vuol dire, lei l'ha fatto in situazione diversa con la barca a reme, cosa vuol dire fare il giro del mondo da soli, o comunque una traversata le ha fatto molto lunga da soli, lei per 226 giorni, questa Jessica Watson non lo so, ma per più o meno così. Tra l'altro è arrivata appositamente, erano tutti disperati, la cosa più disperante che stavano vivendo in Australia è: speriamo che arrivi prima che compia 17 anni, perché se arriva che ha compiuto già 17 anni non entra nel Guinness dei primati. Fortunatamente è arrivata 2 giorni prima. Allora, cioè, un po' di, come dire, di ansia da prestazione c'era, no, Alex Bellini, in questo caso? Sì, mi sembra assolutamente di sì, mi sembra proprio una bieca ricerca del sensazionalismo, no? Non è più un'attività sportiva che, per l'amor di Dio, è qualcosa di molto... che fa onore a un bambino di 15-16 anni che voglia impegnarsi così a fondo per un'attività sportiva. Qui però siamo già da qualche altra parte, in una terra che ancora non riesco a dargli un nome preciso. Certo è che a 12 anni io non so se non ricordo se a 12 anni sapevo che cosa, dove fosse l'Everest, ecco questo che voglio dire, no? L'attività sportiva fa sicuramente bene per la crescita armoniosa anche del corpo e del fisico di un bambino, forse lo è meno dal punto di vista proprio della performance. Tra l'altro non è la prima volta, questo Romero a 10 anni ha scalato il Kilimangiaro, a 10 anni, professor Meluzzi, altro che a 13 Everest, a 10 anni il Kilimangiaro, no. Capisce che insomma molti dicono la società cambia, insomma si diventa anche adulti più presto. Ma io non credo che sia il problema soltanto il diventare adulti, anzi mi permetterei di dire che secondo me il problema è l'opposto, cioè non sono i bambini che diventano adulti prima, secondo me sono gli adulti che tendono a rimanere bambini per sempre, ma non nel modo migliore. Cioè il problema è quello, insisto, di qual è il senso della vita. Allora, se il senso della vita è essere i primi in ciò che facciamo e esistere soprattutto perché abbiamo raggiunto un certo obiettivo che ci rende unici, speciali, particolari, vincenti, questa è una cosa piuttosto scontata e fisiologica che fa parte, direi, delle radici evolutive più antiche dell'uomo. Di essere il cacciatore più veloce, di essere il guerriero vincente, di essere il capo tribù, di essere il leader, cioè l'agonismo. Io mica mi scandalizzo del fatto che la natura umana sia fatta anche di agonismo, di competizione, di lotta, di aggressività, di violenza e di essere vincenti. Il Guinness dei primati diventa, come dire, la materializzazione di questo fatto. Quello che trovo sconcertante è una certa carenza di contrappesi da questo punto di vista, cioè il fatto che purtroppo la nostra società è una società invece in cui l'altro aspetto della questione, che è il contrappeso dell'agonismo, ed è invece l'atteggiamento comunitario, lo stare insieme, il fare sport, ma non per essere primi, ma per farlo, per cooperare con gli altri. Non vorrei sembrare un buonista, ma insomma pensate un po' a quello che sono stati anche i valori fondamentali su cui le società del passato hanno emesso dei messaggi forti. Dico delle cose molto dépassé, dal libro cuore ai ragazzi della Via Pal, dal Vangelo alla Bhagavad Gita, ovunque, in tutte queste grandi culture di cui l'umanità è vissuta, il tema dell'essere gruppo dell'essere pari, dell'essere solidali. Prevalevano, prevalevano sul fatto di essere unico, singolo, primo. Allora questa corsa, qui tanto non si potrà essere tutti primi ovviamente, ci costringe ad uno stress della vita terrificante. Qui questi ragazzi sono soltanto gli anticipatori. Vediamo se è per essere primi. Io devo chiudere. Alex Bellini, lei perché l'ha fatta questa traversata? Cosa voleva dimostrare? In realtà non c'era granché da dimostrare. Io oltre all'Atlantico ho attraversato il Pacifico, quindi sono anche ricascato una seconda volta, diciamo, nelle mani ammagliatrici dell'oceano. L'ho fatto per un profondo desiderio di immergermi in una natura e cercare di farlo nella maniera più arcaica possibile, su una barca remi, scegliendo il mezzo più lento, proprio per il desiderio di scoprire quella natura che nella nostra società ci sta scappando dalle mani. Cioè non voleva essere primo a nulla, insomma, non voleva iscriversi in chissà quale Guinness o classifica, ecco, voleva fare una cosa. No. Va bene, io vi ringrazio e mi fermo. Grazie a Alex Bellini e il professor Alessandro Meluzzi. Di Alex Bellini voglio ricordare, se volete leggervi, Mi chiamavano Montanaro, il primo italiano che ha attraversato l'Atlantico a remi. Il 75% continua a dire no, non lo manderemo a nostro figlio. Grazie a Filippo Aureggi in regia, la nostra Sara Sprea Fico in redazione. Non so ancora se ha firmato per l'Orsodino, ma scopriremo presto. Ci sentiamo lunedì mattina.